Quindi, se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Mi dispiace, ma io so io. E voi non siete un cazzo. Scelta è fatta solo nell'interesse di Roma e dei romani. Chini, d'altronde, era stata la nostra prima opzione e anche quella della Lega, ma poi l'altro nostro alleato ci aveva chiesto di rinunciarvi. Penso che sia un coraggioso e generoso riconoscimento da parte di Berlusconi a un movimento civico che in questi 3 anni ha fatto delle battaglie importanti per la città, difendendo e tutelando i diritti dei romani. Berlusconi a Roma non vuole vincere, evidentemente c'è alla base un patto con Renzi, è l'unica cosa che giustifica una scelta così folle. Fino a ieri c'era Bertolaso che era un genio, che avrebbe risolto tutti i problemi di Roma, guai a chi lo tocca, che cattivo che Salvini che non lo capisce. Oggi lo scarica pure lui, non per sostenere la candidata di centrodestra, ma per sostenere il candidato di Casini e di Alfano. Quindi la Meloni arriva al ballottaggio con o senza Berlusconi. Bella sta versione di Stand By Me, Saluto Rosanna da Porto Gruaro che ci augura un venerdì da leoni. Le mie lunedì, le venerdì. Senti la solo. Col banjo sembra. Ragazzi, ma io da quanto tempo è che vi dico che è uno spettacolo gratuito, che non pagate manco il biglietto e vi mettete lì? Senti, senti l'armonica. Che spettacolo a Roma, ragazzi. Telenovela giunta alla puntata 2789 dell'Affair Bertolaso, finito. E Berlusconi converge su Marchini che 2 giorni fa qui a 24 mattino diceva: no, io sono libero dai partiti, non mi piace questo tipo di approccio. E adesso, ma io guardate, avevo dei dubbi, poi quando vedo sulla stampa Casini che rialza la testa dice: beh, il cavaliere graffia ancora. Ah, lì medito parecchio. Casini e Fini che rialzano la testa. Torna il polo. Vi ricordate il polo? Polo della libertà. Sono le 6:33 minuti, è venerdì, cari amici. Lorenzo Nespoli in redazione e Peter Bescapè in regia. E siamo qui. Salutiamo tutti con il Parlamento che apre. Saluto anche il nostro, il nostro. Chissà quanto, quanto ci potrà dire. A questo punto non gli resta che votare una sola candidata. Invece. Il nostro Vincino, buongiorno. Buongiorno. Come va? È bello spettacolo, eh? Tu hai pagato il biglietto per questo spettacolo? No, assolutamente, sono a Milano, fa un freddo cane. A Milano, ma sì. È così, a Milano un è freddo venuto cane. L'inverno, è venuto l'inverno. È una cosa, guarda, ma cioè, come fate a vivere qua, in, questo, in questa landa così? si vive un po'. Infatti è arrivato l'inverno finalmente. Ci sono tipo 6 gradi al mattino, quanto ce n'erano a gennaio. Finalmente ce l'abbiamo fatta anche noi. Va bene. Quindi, ma sei andato via? Sei andato via sul più bello? È come andare via sul finale? No, per guardare da lontano un attimo, no? Si vede meglio da lontano. Si vede meglio, assolutamente. Però tu l'hai fatto oggi sul foglio la vignetta. In fondo la vera candidata del centrodestra è la ragazza di Previti. Assolutamente, con qualcuno che suggerisce a Berlusconi, è brava, è una brava figliola. Quello è Previti. Sì, è Previti, certo. Assolutamente, è una affidabile, no? È una che mettono a presiedere una società, come dire, una... Cioè, mica metti la prima scema qualunque, la prima stagista. Che pasta, lei dice, io sono là perché, no, non era perché è stato 5 anni, 6 anni, quale perché, ma scusa, dopo tutto quello che era successo, ma ti immagini che un ragazzo minimamente democratico e coso, dopo le condanne di Previti per essersi, secondo le condanne, poi non ci credo mai a queste cose qua, comprato magistrati, vabbè, il caso squillante qual è, scusa, si capisce niente, siamo arrivati a squillante, vabbè, ho capito, insomma, comunque Virginia Raggi, apprezzavo. Va bene, dai, siamo alle 6:35 minuti, ci dicono un bel ciaone a Bertolaso, salutiamo anche Carla Rocchi, presidente dell'Ente Nazionale Protezione Animali, buongiorno. Buongiorno. Come va lo spettacolo lì a Roma, lei a Roma almeno? Beh, io me lo godo proprio dalla prima fila. Bellissimo, i topi sono salvi, Bertolaso via, i topi sono salvi, Carla Rocchi, i topi sono salvi, può esultare con lo champagne. I topi ringraziano, noi devo dire un po' così, per lo spettacolo sicuramente. Io la cosa più carina che ho sentito in questa settimana è stato quando Bertolaso ha detto: io mi è stato il presidente, mi ha chiesto un grandissimo sacrificio, di rimanere. Sì, che fosse un sacrificio, l'ha detto varie volte, sei capito? Sì, ma questo grande sacrificio, che poi per come siamo fatti noi. La risposta è: ma chi te l'ha chiesto? Questo è come quando una persona ci dice: sai, ti ho dato i migliori anni della mia vita. La risposta nostra è sempre: ma chi te l'ha chiesto? Comunque io ho una mia tesi, ieri l'ho scritta anche su Facebook, la mia tesi da giorni ve la dicevo, e cioè che Bertolaso, che è tutto fuorché uno stupido, dai, non è uno, ha fatto apposta, cioè non puoi dire di no a una richiesta di Berlusconi, e quindi l'ha fatto controvoglia, e allora che fai? È come quando vai a una cena di gala, non hai voglia di andare, allora vai lì e inizi a buttare i bicchieri per terra, spacchi, rovesci il vino addosso ai commensali finché ti dicono: senti, guarda, adesso non è proprio il tuo mi dispiace, io ci ho provato, non sono adeguato evidentemente, e poi te ne vai via e ridi. Qual è il dopo per lui però? Ma il dopo? Ma ha fatto tutto quello che doveva fare nella sua vita. Il dopo è che non gliene frega niente di fare la politica in Italia quando è arrivata a 65 anni. Sì, no, ma dico, un dopo ci sarà, perché nessuno si mette in mostra così, nessuno fa sti numeri dicendo ci sono per niente. Io, se non c'è un dopo, qual è il dopo? È vero, che ingenuo che sono. Vincino, qual è il dopo di Bertolaso? No, ma non lo so, guarda, se... Tu dici che questa è una cosa importante, eh? Non lo so. Ce ne può fregare di meno, poi in realtà questa è la vera adesso, cosa. Adesso è la notizia del giorno che sui giornali torna al polo, torna al centro, torna Casini, Fini, Berlusconi. Questa è un'altra cosa che nemmeno, cioè, Marchini è un candidato civico veramente, non è che ce l'ha già, non, alle scorse elezioni, obiettivamente tra Alemanno e Marchini uno non poteva votare Alemanno e votava Marchini. Non è che, cioè qua uno non può votare la Meloni per Alemanno, questo è il punto, no? Dopo i disastri che hanno fatto questi qua, peraltro i disastri che hanno fatto anche gli altri, no? Quindi ci rimane, Marchini è quello che è così, insomma, è il candidato civico che rimane, no? Poi, è il meno peggio, dici, è il meno peggio, vabbè, no, no, ma, per te... no, ma è l'unico che ha proposte, questo è il punto. È tu vedi i cosi, vedi i manifesti, cose, dice due nuove linee di metro, tre linee di tram, no, cose simili. Proposte, la signorina onestà, una proposta seria, non l'ha fatta. Tu vedi, non dice onestà. Niente. La signorina onestà dice noi saremo, noi, ma che cosa fai? Non fate niente, cioè, non ha una proposta sul consiglio, sulla macchina comunale, non ha una proposta di niente. I cittadini, cioè, i cittadini chi? La come signorina dire? Onestà, Carla Rocchi, sei capito? La piattaforma Rousseau, ma per favore. Sai che sei capito, sei capito Carla Rocchi a chi si riferisce. Però devo dire, Carla Rocchi, lei che è grande amica di Ignazio Marino, si è sa. Vero. L'uomo della mia vita. L'uomo della sua vita. Oggi sul Fatto Quotidiano fa la battuta definitiva su Marchini. Effettivamente ho riso abbastanza. Ha detto Marchini l'uomo di punta del Partito della Nazione. Per me in punta ci può stare solo a cavallo quando gioca a polo. E non è male, eh? Marchini, me lo vedo Marchini in punta sul cavallo mentre gioca a polo. Devo dire, il ragazzo Marino non perde un'occasione di... Non perde mai un'occasione per tacere. Mai, per tacere, mai per tacere. Dove pensa di andare? Cosa pensa di significare? Non lo so. Non lo so. Questa città, qualunque cosa abbia dopo di lui... Anche lui. Qualunque cosa abbia è dopo meglio. Di lui sembrerà lieve. Sì. Si sa, Carla Rocchi non ha mai amato Ignazio Marino, anche per i suoi esperimenti sugli animali quando era chirurgo. Tra l'altro gli esperimenti di animali, tra poco parliamo, perché Carla Rocchi è intervistata su Repubblica. Attenzione, attenzione, lo sapeva? Gliel'hanno, sì, gli hanno detto, l'hanno avvisata, l'hanno avvisata che c'è. Sì, sì. No. Beh, sa, noi giornalisti a volte si fa le cose così, è una finta telefonata. A me non fanno le cose a mia insaputa, difficilmente. Si fa una telefonata, dici come va, due parole, poi si piazza giù un'intervista, ovviamente con qualche colpo basso. Ovviamente. Comunque, la notizia del giorno, allora Vincino, se non è questa, sì. Ti faccio sentire quest'altra. Allora, sai che ieri Matteuccio sì. ha fatto un'ora e mezza di Matteo risponde. Sai cos'è Matteo risponde? Sì, sì. Sì, sì, no, sì, lo sai cos'è Matteo risponde, sì. Che si mette lì? Anche lui dovrebbe tacere un po', come dire. Dovrebbe tacere. Sai chi aveva al fianco? Matteo. Quello di Napoli, là. Quello di Napoli. Vincenzo De Luca. È incredibile, sono riusciti per un'ora e mezza a parlare, a rispondere a tutti. In un'ora e mezza non è arrivata neanche uno straccio di domanda sul caso Graziano, quello che sì, non arrestato, ma insomma il presidente del PD, neanche mezzo secondo in un'ora e mezza. Ci sarà uno così urticante che gli avrà detto scusate, ci dite un attimo qual è la questione? Niente, un'ora e mezza, niente. Però grande amicizia tra Renzi e De Luca. Tempo che va via, mi vuota le mani, rispondi. 9 volte su 10 che sento parlare della Campania mi trovo di fronte a scienziaterie, fumisterie. Vede, la Campania... Sei la petaloso, Campania... oggi sei petaloso. No, sono normale. Sei petaloso, gli ha detto Renzi, oggi sei petaloso. Sei petaloso, porca miseria, le ha detto sei petaloso. Io tutte le volte che sono petaloso voglio spaccare un vetro, Vincino, non lo so. Dimmi. Guarda, ormai entri in un bar, ieri sono stato in via Gluck, qua vicino. Via dove... Gluck, vicino sì. A casa mia. Ma però. Nessuno parlava petaloso con nessuno. Pensavi di trovare ancora... Non lo usa nessuno. Pensavi di trovare ancora Celentano in via Gluck. Ho trovato 4 ristoranti di pesce e sì. Poi un bar siciliano. È vero. Stupendo. Ma perché eri in via Gluck dietro casa mia e non mai chiamato? Ma anche come te. Dietro casa tua? Ma è dietro casa mia, via Gluck. È un ti ho chiamato, ho sbagliato. Vabbè, ora sto prendendo il treno, guarda, tra poco. Ma per cui sarà proprio, per la prossima non volta. Non vuoi proprio vedermi, stai cercando, mi eviti in tutti i modi. Carla Rocchi, ma si può fare così, sì, arrivare a casa praticamente sotto casa, come se io vengo sotto casa sua, so dove abita e neanche dico, le offro un caffè. È un maleducato. Ma sì, sì, Emenda ha detto che la prossima volta lo fa. Vabbè, non lo sapevo. Mi sono pure fatto fotografare, guarda, all'arco. Io mi sono fotografato con l'insegna della strada. Stai perché... aggravando la situazione. Ci manca solo che dica... No, che ma ti dica... su Twitter la foto, là. Capito, ma è... Vabbè. Ci manca solo che tu dica non sapevo che vivi a Milano, veramente stai aggravando... No, ma ti credevo verso San Giovanni, verso, che ne so, una periferia di quelle da dove sei venuto, eri rimasto là... Non... Sesto San Giovanni, porta massimo rispetto. Allora, vabbè, sta roba di Renzi e De Luca, Vincino, almeno quella è una notizia che ti interessa? La campagna, le intercettazioni? No, guarda, allora ti spiego. Questo, questo qua, Graziano, che sarà un disgraziato normale come tutti quelli del PD campano, più o meno, non ho capito nulla. Cioè, ci sono due che tra loro, a quello che esce sul giornale, due che tra loro parlano e dicono no, devi votare per quello. No. Vabbè, l'accusa di aver appoggiato... in quei tre paesi ha avuto un aumento dei voti. Non ho capito. In quei tre paesi, in tutte le elezioni degli ultimi anni qualcuno ha avuto voti. Non è che questa è la prova che quello è un camorrista. Cioè, non ho capito. Discorso è? Scusa, anche Renzi ha avuto un aumento di voto là. E allora arrestiamo Renzi. Infatti lo arresteranno dopo domani, secondo me. Facile, perché non ha immunità questo. Assolutamente. Se lui non sta buono con i magistrati, questo è... Ecco. Quindi tu dici che ha ceduto già i magistrati? Cioè, da Vigo ha alzato... La prescrizione è insopportabile. Non è la prescrizione. Allora, non è che quelli buoni sono per aumentare la prescrizione e quelli cattivi sono per mantenerla così com'è. No, la prescrizione è come dire stare 10 anni sotto processo e non avere ancora avuto una sentenza. È già un omicidio, è già la persona è morta, è finita. Questo è il punto. Questo la prescrizione è un delitto già avvenuto. Questo fa aumentare, cioè teniamola per i delitti gravi, per i delitti, per le cose gravi, teniamo la persona che non c'è più, va benissimo, d'accordo. No? Per le cose normali, no, che io sono indagato di avere corrotto Alessandro Milano, forse sì. O forse no. Non mi potete tenere 20 anni su questa storia qua. Questo sì, hai ragione. Io non passo più il mio gruppo per tutta la vita, ma non è che questo sospetto di avere corrotto Alessandro Milan è la povera Carla Rocchi a cui voglio un bene nell'anima per la sua storia e la sua lotta. Abbiamo gli animali tutti e due. Adesso la Rocchi ci dirà qualcosa sui giudici. Prima devo andare al traffico, ma anche tu, Vincino, dici come ci dice un ascoltatore, questa vecchia battuta, che la cosa più bella di Milano è il treno per Roma. La cosa più bella di Milano, il treno per Roma? Assolutamente. No, io quando da Roma vengo a Milano dico che bello. Strade, non ci fosse bar, il freddo, le arie, guarda, il mare, poi c'è un freddo, i bar. Mi piacciono i bar, sono molto più belli i bar di Milano di quelli di Roma. Poi il freddo, poi c'è questa cosa del freddo. È un freddo, cane. Va bene. Andiamo al traffico, che poi Carla Rocchi ci racconta se ha avuto qualche problema con i magistrati. Che ne sei? È stata nei Verdi, è stata in Parlamento, chi lo sa, tra poco. Massima di Confucio, ogni paese ha il traffico che si merita. Signori, ecco il nostro. Alessandro Milan, viva l'Austria, io mi sento un pochino austriaco. Bravi ragazzi, così si fa. Il ministro Gentiloni ha annunciato che manderemo le nostre truppe vittoriose a risalire le valli delle Alpi per riprenderci la nostra patria sovranità. Milan, siamo partiti con le banconote di euro, con i ponti, con le porte e siamo arrivati ai muri. L'Europa è finita. Oh Milan Maria, sono il fiorentino. Lo sento che in tutte le tue trasmissioni mi reclami che ha fatto, che non ha fatto. Molto probabilmente la tua redazione non gli sono molto simpatico. O non siamo molto simpatici noi toscani. Comunque ti voglio dire che io ti sento tutte le mattine e poi ti volevo dire un'altra cosa. Anch'io ho un secondo nome che si chiama Anacleto. Milan, digli così con Vincino che ha rotto i maroni di attaccare sempre i 5 Stelle, che i ladri se li ha in casa. Trovato il nuovo spot per Roma. A Vincino togliete il vino. Eccolo lì, si sa, la tua ostilità al Movimento 5 Stelle non piace a tutti, non piace a tutti. Carla Rocchi, come va con i magistrati? Ha avuto qualche vicissitudine? Non hanno fatto parte della mia vita per adesso. Non hanno fatto, non si sa mai. Che devo dire, sarà una forma di... Ancora non sono arrivata, forse. Nella vita per essere arrivati serve anche un tocco di... Vabbè, però in Parlamento l'avrà vista questo rapporto un po' complicato in questi 20 anni, no? Io ho vissuto un momento, perlomeno l'inizio della mia esperienza politica, era il 92, immaginate un po'. Proprio tutti... Tangentopoli piena. Sì, Tangentopoli piena, però in realtà accade questo. Ci sono due o tre modi di stare in Parlamento. Io ho scelto un modo singolare. Nel senso, a me interessava fare determinate leggi, quelle che riguardavano gli animali. Eccolo. E forse questo non era qualcosa che mi metteva nel mirino di nessuno. Dei magistrati, no, esatto. Difendeva i topini, difendeva i cagnolini. Insomma, diciamo pure però che è di soddisfazione. Se uno ha un'idea, e se quella è la sua idea, e magari riesce a realizzarla, quale che sia, certo. Il minimo di gusto te lo dà. Infatti. Ringrazio Vincino per le sue parole. Io adoro lui, quindi stamattina nasce un'amicizia. Cioè, infatti Vincino riprende il treno per Roma per incontrare Carla Rocchi. Questo è vero, scusa, mattinata. È già la stazione. Che ora arrivi, Vincino, che Carla Rocchi ti porta, sventola il fazzolettino. e così ti aspetta lì. Vabbè, insomma, niente, allora Vincino oggi è così, Roma non gli interessa praticamente, e i magistrati no, questo un po' ti interessa, è una vergogna, ma Davigo, come lo disegneresti Davigo tu? L'ho disegnato là, lui tenta di fare... No, ma tu lo disegni appunto con i tratti, Davigo, ma fosse un animale, che cosa ti ispira Davigo? Fosse un animale... Io amo molto gli animali, devo dirti. E quindi sei in difficoltà ad associarne una a Davigo, va bene. Davigo somiglia a un ermellino. Un ermellino, Un ermellino, perché in realtà quelli li ammazzano, gli ermellini, per mettersi i panni sopra. No, difatti vengono chiamati gli ermellini, certo. No. Ma voglio sperare che siano sintetiche ormai le penne. Ma quali sintetici? Li riprendono dalla Russia, dalla Siberia, assolutamente. No. Ma quali sintetici? Fanno strage gli ermellini è vero, c'è una cosa proprio anacronistica. Sono vere quelle pellicce lì? Sì. Vere. Magari spero che siano tarlate. Che lanciamo la cosa di... Ma Carla Rocchi, ma faccia subito una... la proposta, Carla, assolutamente. Così subito... Ermellini sintetici. Così vedrà che i magistrati entrano subito nella sua vita prepotentemente. Ha aspettato un po' di anni e Vincino adesso l'ha inguaiata subito. Ma scusami, ma tu sei in Cassazione, arrivi e c'è Davigo che ti deve giudicare. Ma io, come dire, del terrore, scusi, perché io ho fatto tanti anni satira politica, per cui politica ho il terrore. Pensa se arrivi, non è un arbitro, come dire. Cioè, come entrerebbe subito Davigo? Signor Vincenzo Gallo, si alzi in piedi. Paf, 30 anni, 20 30... anni, 15 anni. No, vabbè. Sì, dai. Fa così lui, terribile, perché la politica via pasta. Cioè, proprio Vincino, ma 30 anni. La giubba del re, guarda, assolutamente. Con aggravanti, con tutte le aggravanti, Vincino, fine pena mai. E andiamo a fare un po' di lavoro dentro i carceri, che ce n'è bisogno, perché si sta malissimo, no? Eccola, insomma, avresti il terrore essere giudicato da un Davigo. No, assolutamente di niente, assolutamente. No, ti incute un po', timore. No, ma se io fossi un politico non vorrei farmi giudicare da Davigo, perché lo troverei prevenuto, obiettivamente, ecco. Lo è prevenuto, bene, aspetta che lo segniamo bene e poi lo mettiamo tutto su Twitter, tutto per far passare una buona giornata e un buon venerdì, un buon weekend. No, non lo mettere su Twitter, guarda. No, che magari non l'ha sentita, non glielo ricordiamo. No, ma dai, l'hai detto. Ho capito. No, torniamo su 5 Stelle, che è meglio. Ormai lo hai detto. Comunque, per chiudere la questione Roma, oggi Berlusconi, dicono su Repubblica, nel retroscena classico, è infuriato anche con Salvini, proprio per le parole che Salvini ha detto 2 giorni fa qui a 24 Mattino, quando l'avevamo ospite, ha detto Renzi ricatta Berlusconi sulle aziende. Fare la guerra totale a un Presidente del Consiglio che ha in mano il potere di scegliere se e quanto far pagare o far guadagnare le tue aziende non possa lasciare completamente libero di scegliere nessuno. Renzi in qualche modo ha il modo al governo per ricattare le aziende di Berlusconi. Mi sembra evidente. È evidente questa cosa per Salvini. Berlusconi è infuriato, dice Repubblica che dice: ma vi rendete conto cosa ha detto alla radio Salvini? Io ho ricattato le aziende, i miei figli, e io dovrei fare alleanze con questo qui. E insomma, Berlusconi, e così finisce. Però, come detto, oggi Carla Rocchi è su Repubblica, eccola qua, che c'ha anche un cagnolino, che bello, c'ha un cagnolino. Okay, che io non l'ho visto ancora, che il cagnolino bianco hai. No, no, è un cagnolino beige, marrone, con degli orecchioni, cucciolino con delle orecchioni molto lunghe. Passerotto. Non lo so. Carla Rocchi, perché l'Unione Europea ci bacchetta dicendo che dovremmo fare un po' più di esperimenti sugli animali. Un po' più di test sugli animali. Ho capito, ma su dove li proviamo i farmaci, Rocchi? No, per carità, guarda che mattina presto ci fa male la salute. Su te, che ne so, ma dove li devi provare i farmaci? Non ho capito. Ma che c'è? Secondo te, scusa, il mio cagnetto Pulce reagisce come me allo stesso farmaco? Dai, Rocchi, è nato un amore tra Vincino e Rocchi. Ho capito, ma cos'è? Gli scienziati sono dei Mengele, facciamo un primo passo. Gli scienziati, è proprio un termine da Archimede pitagorico. Chi studia si chiama studioso. Va bene, perché se noi cominciassimo a chiedere studia, poi non è detto che gli studi abbiano, ne abbiamo viste tante. Qui esiste una fortissima lobby conservativa che di interessi, sì, che fa i suoi interessi, come è legittimo, no? È legittimo fare. Cioè, ma quindi bisognerebbe abolirli per lei, gli esperimenti sugli animali. Bisognerebbe studiare le vere alternative, quelle che fanno stare meglio noi. In altri paesi un po' meno provinciali del nostro, sì, si studiano le cose, si studiano i metodi, si studiano le vie che portano ad un migliore risultato per la salute. Io non voglio parlare di animali su questo, ma di salute nostra. Noi stiamo meglio se le medicine vengono sperimentate a misura nostra. Ma si dice, quante volte avete sentito dire, ci sono le medicine a misura di uomo e di donna, non è la stessa cosa, di adulto e di bambino. Allora, di adulto e di bambino, di uomo e di donna, e poi noi siamo uguali al topo. Vabbè, però devo dire, ecco, esatto, a proposito di topo, l'avviso che su Repubblica mettono appunto una foto di questo topino bianco, spaurito, con un siringone che gli pende come una spada di Damocle sul crapino. Questa è una strada, come tutte le cose di questo mondo. Tra 20 anni le cose saranno cambiate, ma viviamo ancora un momento di fortissima resistenza di un mondo che ha i suoi punti di vista, che ha i suoi riferimenti, che non vuole lasciare spazio. Ma è chiaro. E poi, insomma, il dibattito c'è, e su Repubblica oggi leggerete la posizione più precisa di Carla Rocchi con un bel cagnolino in braccio. Vi devo salutare. All the friends you got, you gonna need somebody to stand by you. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Forza amici, alle 7:20 minuti, dai che oggi è venerdì e si sa. Allora, che dobbiamo fare? Qua dobbiamo leggere i giornali come al solito, dobbiamo concentrarci sui temi principali, Roma, soprattutto per quel che riguarda la politica, ma anche gli arresti per alcuni presunti jihadisti che volevano immolarsi in Italia. Avremo il procuratore antimafia e antiterrorismo Roberti, nostro ospite, dopo le 8:20. E allora tuffiamoci sui giornali. Le mie lunedì, le venerdì. Ebbene sì, è venerdì 29 di aprile, con l'apertura del Sole 24 Ore. Frena la crescita USA ai minimi da 2 anni, dunque la crescita negli Stati Uniti che segna un freno, il PIL salito solo dello 0,5% annuo nel primo trimestre.